tempeste di un inferno che non può andare via. Ma se vuoi, puoi dire basta. Ma se vuoi, lo mollerai. Respirerai l'aria di un cielo che respirerai l'amore intorno a te. Ricorderai delle parole dentro te. Ritornerai più forte di prima. Accarezzerai la voglia d'amare e sorridere. Parole che nascono dai cuori pieni di verità, ma in te non esisteranno ostacoli, ma in te scriverai la tua storia. Respirerai l'aria di un cielo che respirerai l'amore.